l'Emilia che riparte. Emilia sognante, fra l'oggi e il domani, di cibo notore, lusso e valere. Mia madre è venuta in camera mia e ha detto: Matteo, Matteo, c'è il terremoto, c'è il terremoto, alzati! E a quel punto io mi sono svegliata di colpo e sono caduto giù dal letto. Io dormivo quando è venuta la scossa e non l'ho sentita. Mi hanno svegliato dopo che è venuta. Io la mattina dopo non ne sapevo nulla, quindi era come una mattina normale. Invece gli altri hanno detto: avete sentito il terremoto, questo, quello? E io ho detto: il terremoto, perché il terremoto? E perché non l'avevo neanche sentito. Il terremoto, perché il terremoto? Apriamo con le voci dei bambini, ci accompagneranno in questo speciale. Buonasera, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con l'Emilia che riparte un anno dopo una serata dedicata a questo 29 maggio, 12 mesi dalla seconda scossa che ha piegato l'Emilia. Io sono Federico Taddia, con me Laura Bettini. Ciao Laura. Ciao Federico, buonasera a tutti. Un emiliano sono io, ho avuto la possibilità di raccontare la mia terra, cosa che Radio 24 ha fatto tantissimo, anche tu ci sei stata, e questa sera raccoglieremo voci, racconteremo storie, avremo testimonianze, un po' per raccontare l'umanità, un po' per anche raccontare quello che si è fatto, quello che si sta facendo, quello che manca. Da giornalista, com'è stata l'esperienza di essere inviata sul campo? È stata un'esperienza dura e nuova per me, perché comunque avevo avuto occasione di vedere gli effetti di un terremoto assai meno forte, meno devastante, che era stato sul lago di Garda qualche anno fa, sempre per la radio. E andare lì invece è stato molto diverso, molto, molto più forte, un'esperienza difficile. È stato bello da un punto di vista umano, perché comunque ho conosciuto persone che mi hanno dato tanto, che mi hanno anche aperto la loro casa, mi hanno fatto conoscere quello che erano le loro difficoltà. Ma vedere un terremoto, io dico che a questo punto in Italia dovremmo vederlo tutti per capire le difficoltà, per capire l'Aquila, per capire l'Emilia, per capire veramente che cosa si prova a essere buttati fuori di casa e soprattutto essere privi dei riferimenti che si hanno di solito nella vita: la piazza, l'oratorio. Ciascuno di noi ha qualcosa dove va quando ha bisogno di compagnia. Ecco, lì non c'è in questo momento. Emilia che riparte, @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica se volete scriverci in diretta, cosa che potete fare anche via SMS, 349-238-6666. Laura, iniziamo il nostro viaggio andando in uno dei tanti comuni colpiti. In questo momento si sta svolgendo una cerimonia, una fiaccolata, perché ricordiamo che è stata distruzione, sono crollate case, sono crollate scuole, sono crollate fabbriche, ma ci sono state anche delle vittime. State 28, quelle direttamente causate dal sisma. Poi purtroppo ci sono state anche molte altre morti, specialmente tra gli anziani che sono stati allontanati dalle loro case, hanno perso appunto i loro punti di riferimento, si sono trovati a chilometri di distanza dai loro luoghi. Ecco, ci sono anche state delle vittime, diciamo, indirette del terremoto. 28 quelle causate dal sisma, più un volontario che poi dopo è stato ha perso la vita anche lui nel portare soccorso a coloro che avevano delle difficoltà. Ma appunto, come dicevi tu, in questo momento c'è una fiaccolata, ce ne sono state altre. Io ho assistito a quella di Finale Emilia il 20 di maggio, che fu l'epicentro della prima scossa. Adesso andiamo a Cavezzo, siamo in provincia di Modena e con noi c'è Giovanni Fattori. Vi spiegheremo anche quello che ha ideato nelle ore, nei giorni successivi al sisma. Buonasera Giovanni. Sì, buonasera anche a lei, buonasera a tutti. Cosa si sta vivendo in questi minuti a Cavezzo? Semplicemente in silenzio stiamo facendo una processione, diciamo una fiaccolata, per ricordare i 4 morti che noi abbiamo avuto qui a Cavezzo. È un modo per onorarli, ecco, perlomeno per ricordarli. Uh-huh. E Giovanni, noi abbiamo conosciuto la sua storia, la sua di altri colleghi che hanno abbracciato questo progetto, che è stata l'apertura di una sorta di centro commerciale, Cavezzo 5.9, un po' per sdrammatizzare anche quel 5.9, sì, che è stata un modo un po' per ironizzare, diciamo, la magnitudo che noi abbiamo avuto, anche se onestamente non crediamo che sia stata quella, ma questa è un'altra cosa, ecco. Diciamo che era un pochino più forte, ma fa lo stesso. Va bene. No, semplicemente dopo il terremoto ci siamo trovati noi commercianti e abbiamo pensato a quest'idea pensiamo innovativa, è un primo centro commerciale che viene fatto con i container qui in Italia, abbiamo preso spunto dal diciamo un box park di Londra e di conseguenza abbiamo provato a vedere se riuscivamo a mettere in piedi questo progetto che era abbastanza direi ambizioso anche per dei terremotati. E successivamente al terremoto siamo riusciti a metterci insieme, ad accordarci e a far partire questo progetto. Adesso diciamo l'abbiamo terminato, il 9 di marzo abbiamo fatto l'inaugurazione e ci sono 17 attività che hanno trovato collocazione all'interno di questo centro commerciale. Uh-huh. E l'economia, la microeconomia di una comunità, di un comune è ripartita grazie a questo centro? Sì, direi che la gente viene a vedere questo centro commerciale, questa cosa nuova, diciamo in mezzo alle macerie, però viene per vedere questa ricostruzione, questa cosa un po' innovativa e allo stesso tempo riporta l'economia in un paese che era disastrato, distrutto dal terremoto. Quindi l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati all'inizio, che era proprio quello di riportare la gente all'interno di questi paesi distrutti, all'interno di questo cadenzo, siamo riusciti diciamo nell'intento, perlomeno vediamo che la gente sta venendo. Quindi l'economia piano piano sta ripartendo, i negozi sono abbastanza felici, contenti perché sono spesso pieni di gente, quindi la gente poi viene ad acquistare e questo è anche un modo per darci una mano. Io le devo chiedere, perché mi è capitato di parlare con tanti suoi colleghi commercianti dalle vostre parti, se siete riusciti a ripartire con le vostre forze o avete ricevuto qualche aiuto, sostegno dall'amministrazione? No, assolutamente, no. Non abbiamo in questo momento ricevuto nessun sostegno dalla parte dello Stato, ci siamo arrangiati noi a fare tutto, abbiamo pagato noi di nostra tasca e cercando di farlo in economia perché abbiamo montato per esempio 900 metri quadrati di tavolame, di pavimentazione e quella ce la siamo montati noi nei fine settimana, di notte, lavorando anche fino alle 3 di notte, purtroppo tra l'altro sotto dell'acqua, della neve, del ghiaccio perché fino è adesso stato abbiamo un anno avuto brutto. Anche un tempo inclemente, anche questo ce l'abbiamo avuto contro, ma comunque alla fine ci siamo riusciti, ecco, e abbiamo fatto tutto con le nostre mani. Abbiamo avuto qualche donazione, qualche sponsorizzazione, perché anche questo era un obiettivo di questo progetto. Fortunatamente abbiamo trovato un'associazione che si chiama Sor Optimist, che ci ha donato una bella cifra e questo è andato a vantaggio di tutti i commercianti che ci sono dentro. Grazie, vero. Grazie Fattori per questa testimonianza. Ricordiamo il sito per chi volesse vedere quello che state facendo. www.cavezzo59.it, giusto? Esatto, oppure anche la pagina Facebook Cavezzo 5.9, dove lì potete vedere anche in diretta un po' tutti gli eventi che si svolgono in questo centro commerciale. Grazie davvero, buona serata. Grazie a voi, buona serata a voi, grazie. Una serata di storie, ma anche una serata di testimonianze, una serata di omaggi, ci saranno tanti personaggi più o meno legati all'Emilia che ci racconteranno il loro punto di vista. Ma iniziamo veramente con un regalo ed è quello che ci ha fatto Fiorello insieme agli amici dell'edicola con cui ogni mattina fa la sua rassegna stampa e anche loro hanno voluto esserci in questa serata dedicata all'Emilia che riparte. Amici di Radio 24, buonasera, buonasera, ciao Federico Daddia e Laura, vi salutiamo, volevamo anche noi partecipare a questa diciamo triste ricorrenza che ha piegato l'Emilia, il terremoto è esattamente il 29 maggio, ma piegato l'Emilia ma non spezzato, e questa è la cosa più importante perché gli emiliani ne conosco tanti, ne conosciamo tanti, sanno diciamo reagire a situazioni gravi come quella di un terremoto. Noi volevamo essere presenti, come dico la Fiore, fare un applauso a tutti gli emiliani. Non so, ci sento nella radio. Allora, grazie ragazzi, non ci potete vedere ma noi siamo qua tutti in gruppo, c'è John Wayne, c'è Agonia, urla, viva l'Emilia! Viva l'Emilia! Basta Agonia, la sta applaudendo da solo Agonia, scusate, continua ad applaudire. Allora pensavamo di dedicare una canzone, volevamo dedicare una canzone, visto che siamo in radio, con i nostri mezzi tecnici non si sentirà benissimo, però l'importante è il pensiero, quello che conta. Ci abbiamo il testo qua, casomai vedeste anche il video, perché stiamo facendo anche un video nel frattempo. Allora la canzone che abbiamo scelto è di un Emiliano Doc, che è Lucio Dalla. Allora il pezzo è Futura, e Futura è la cosa più importante, è che in un prossimo futuro l'Emilia si possa rialzare definitivamente, ma così sarà, e quindi chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani insieme. I russi, gli americani, non lacrime, non fermarti, e non lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E cara Laura, perché abbiamo anche noi nel gruppo nostro, abbiamo come sapete un rapper che scrive rime bellissime, ne ha preparate alcune per voi, e quindi adesso parola e rap a Otello Man for Emilia! Otello Man, edicola Fiore, 27 maggio, per l'Emilia e il vostro coraggio. È così, la terra trema, non hai il tempo, lei decide, torri, scuole, campanili, il cemento uccide, la paura attacca, 29 maggio, ma dai container si riparte, dalle tende, dal coraggio, e il tempo lo riprendi nelle mani, Bologna, Ferrara, Modena, la forza dei volontari, l'Emilia si rialza e volontà nella realtà, l'unica strada si chiama solidarietà, solidarietà, solidarietà, solidarietà, si chiama solidarietà. Grazie Otello, grazie a tutti e ciao amici di Radio 24, grazie. Questo è l'omaggio musicale che Rosario Fiorello ha fatto all'Emilia in questo speciale. Potete vedere anche il video dal nostro sito radio24.it, lo abbiamo già pubblicato, quindi potete riascoltare o vedere anche Fiorello e gli amici dell'edicola in azione. Laura, il terremoto è storia di persone, e poi ci sono i numeri che sono la... Ci sono i numeri la che ci danno anche, no? Un po' la dimensione, anche se poi dopo è difficile, quando leggiamo quanti quintali di macerie sono state spostate, non riusciamo neanche a avere un'idea di cosa voglia dire. Però ci sono dei numeri molto, molto che parlano, ecco. Oltre 2500 scosse dal 16 maggio 2012 al 20 maggio 2013. Io direi, Federico, che questo già ci dice tutto, no? Abbiamo passato l'inverno ad aggiornare una nuova scossa. È chiaro, quelle più forti sono state quelle del 20 maggio alle 4:03 di notte, magnitudo 5.9, come sentivamo prima, colpì Finale e San Felice. In particolare poi quelle del 29 maggio, che furono tre molto forti, 5.8, 5.3 e 5.1, fu coinvolto in questo caso il Mirandolese, anche il Carpigiano. I racconti dei Carpigiani tra l'altro sono impressionanti, di Piazza Martiri che fumava perché dalla pavimentazione saliva quasi del fumo, sembrava una situazione da guerra mondiale, insomma loro la raccontano così. La piazza è talmente grande che effettivamente immagino sia impressionante vedere come si muoveva e come il Duomo poi ruotava su se stesso, raccontavano anche quasi tutti tutti mi hanno raccontato della cupola del Duomo che ha avuto una torsione e tutti si immaginavano che il Duomo stesse per crollare da un momento all'altro, invece è ancora lì, c'è tutta l'impalcatura, ma il Duomo c'è. E altri numeri, le province colpite, l'abbiamo sentito adesso nel rap: Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, in Lombardia, non lo diciamo mai, ma anche la Lombardia e il Veneto sono state colpite da questo terremoto perché sono confinanti, la provincia di Mantova e la provincia di Rovigo. I danni stimati in 13 miliardi complessivamente, gli sfollati lì per lì furono 45.000, 16.000 alloggiati nei campi, tende, alberghi o strutture diverse, chiusura dei campi fine ottobre del 2012, ci sono ancora però 2.300 persone in quelli che chiamiamo container, che poi hanno un nome più elegante, moduli prefabbricati, no, la forma quella è. E dopo i controlli, e poi chiudiamo, altri dati li diamo dopo, dopo i controlli 14.000 edifici inagibili, ma le unità abitative, quindi le singole abitazioni, sono 33.000 completamente inagibili, poi ci sono quelle parzialmente inagibili e qui la via per ricostruire e rinsaldare le fondamenta sarà lunga. E oltre ai numeri ci sono le parole, questa era veramente una testimonianza diretta di chi, io ero in casa la prima scossa, ero per strada la seconda scossa, l'ho vissuta, ti entra dentro questa paura che comunque ti accompagna giorno per giorno e poi cammini, vai nei centri storici che sono cambiati, vai a vedere la tua chiesa che non c'è più, vai a vedere la tua scuola che non c'è più e senti le parole delle persone e davvero per giorni, per settimane, ma tuttora c'è questa parola crepa. Che ritorna, quante crepe hai in casa, quante crepe hai visto, la tua casa è ancora crepata e così diventa un vocabolo nuovo che diventa punteggiatura delle giornate e fai veramente fatica a liberarti di questo fardello. Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo, poi ancora qua con la nostra diretta, con altre parole, con altre testimonianze, con altri racconti. L'Emilia che riparte. Ero a dormire, poi ho sentito una scossa, ero continuato a dormire, poi è venuto mio padre che mi ha svegliato e ha detto andiamo tutti giù perché c'è il terremoto. L'ho intuita però non ero molto cosciente perché mi ero appena svegliato e non sapevo cosa succedesse. Stavamo dormendo, poi a un certo punto ho sentito tipo un rumore, una specie di boato. E i miei genitori hanno acceso le luci delle camere e hanno cominciato ad urlare il terremoto, il terremoto, il terremoto. Quelle che state ascoltando sono le voci di una cinquantina di bambini dei comuni colpiti dal terremoto che sono stati video intervistati dall'associazione Future Film Festival in collaborazione con in INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in questo progetto voluto dalla provincia di Bologna, hanno testimoniato come solo i bambini sanno fare ed è nato un bellissimo lavoro intitolato C'è un ladro nel divano, che è una delle risposte che i bambini ha dato per raccontare quello che pensava fosse il terremoto, perché noi da bambini, noi emiliani, cioè, ci hanno sempre raccontato che il terremoto non era cosa nostra, quindi... Ma l'hanno raccontato non solo a voi emiliani, ai lombardi, un po' a tutta, fino alle sorgenti del Po, insomma, siamo stati sempre un po' convinti che qua non potesse accadere, quindi a maggior ragione si è impreparati, non si sa come muoversi, io credo che se lo chiediamo magari a un siciliano nella zona magari di Catania, abituati all'Etna o piuttosto a un messinese, insomma gente che ha vissuto queste esperienze purtroppo più volte, magari ha già più l'idea di come si deve comportare. Un lombardo, un emiliano non ci hanno mai pensato al terremoto, all'alluvione sì, ma al terremoto no. Esatto, e tra le tante storie ed è anche un po', diciamo, la volontà racchiusa in questa voglia, bisogno di ricordare quello che è stato un anno fa, ma anche proprio il desiderio, la voglia, l'istinto, che è poi l'istinto emiliano, questo sì, di guardare avanti. Adesso andiamo a conoscere dal vivo una bella storia, una storia che lega lavoro, impresa sociale, solidarietà, concorrenza che diventa amicizia, che diventa un aiuto. Tutto questo lo facciamo sorseggiando una birra. La birra è quella del microbirrificio artigianale Vecchia Orsa, fa parte di una cooperativa, si chiama Fattoriabilità, una cooperativa che dà lavoro a persone disagiate, a persone svantaggiate, a disabili, e usano la birra, fanno la birra, un'ottima birra. Anche loro sono stati piegati dal terremoto. si sono guardati in faccia, si sono detti: cosa facciamo, molliamo tutto o rilanciamo? Hanno scelto di rilanciare. Per farlo hanno fatto entrare nuovi soci, hanno raccolto qualche soldo. Una ditta concorrente ha prestato i propri laboratori, ha detto: venite qua con la vostra ricetta e fate la vostra birra. Loro sono andati, hanno fatto una birra, l'hanno battezzata Magnitudo, questa birra legata al terremoto, una sorta sempre per di sdrammatizzare, sdrammatizzare. 5.9 di prima, brava, una sorta di birra di passaggio con la quale rimanere sul mercato il tempo di trovare una nuova sede, trovare nuovi finanziamenti, trovare i crediti delle banche e poter ripartire. Ce l'hanno fatta, la nuova sede è a San Giovanni in Persiceto, e questa sera sono là per ricordare, per guardare avanti e per stappare anche una delle ultime bottiglie di Magnitudo, perché questa birra hanno deciso di non produrla più. Con noi c'è il presidente della cooperativa, Michele Clementele. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Magnitudo Day, aperti alla speranza, questo è il titolo che avete dato alla vostra serata. Ma sì, come dicevate voi, abbiamo voluto ricordare questo giorno, chiaramente con tutto i ricordi di angoscia un po' che danno, però con questa titolo aperti alla speranza, perché oggettivamente bisogna poi rimboccarsi le maniche, ripartire, trovarci. Difatti questo spazio, che adesso voi non vedete, ma è pieno di persone che stanno sorseggiando varie birre, tra cui anche la Blonde e la Magnitudo, è stato uno spazio che durante tutta la giornata ha visto passare persone per parlare, per confrontarsi, per bere una birra, per stare un po' insieme, ecco, perché uno dei segreti, se ci sono dei segreti in questa anche ripartenza nostra proprio, ma anche un po' di molte ditte, di molte esperienze che conosciamo, è il fatto di ripartire insieme. Mm-hmm. Ripartire insieme credo che sia veramente una chiave fondamentale. Voi che avete vissuto sulla vostra pelle proprio il valore della solidarietà, però una solidarietà cercata, animata, fatta di coinvolgimento, fatta anche di creatività, di idee, di voglia non di piangersi addosso, ma di ripartire per l'appunto. Guarda, sì, noi spaziamo dagli sposi che sul tavolo di nozze ha raccolto dei soldi, al coro che ha fatto una serata straordinaria di gala a Roma, al circolo dei lettori di Torino, alla persona che ci ha dato 20 euro facendo un bonifico dicendo tenete botta. Quindi dobbiamo proprio testimoniare questa solidarietà diffusa, anche molto diciamo amichevole, molto spronante per noi, nel senso che al di là dell'aiuto economico che evidentemente dava, c'è questo plus valore della essere vicini da tutta Italia, quindi questo è stato per noi molto importante, ribadisco, non solo come aiuto economico, ma come aiuto di sentirsi un po' con una cooperativa veramente molto allargata. Ma è rimasta qualche bottiglia di Magnitudo? La volevi, Federico? La volevo, sì, almeno una. Qualche bottiglia è rimasta, adesso gli avventori attualmente del birrificio non sanno che non potranno andare a casa se non si porteranno a casa una cassa, perché quelle casse che adesso troneggiano in mezzo al birrificio devono essere finite, ma questo poi lo impareranno all'uscita. No, a parte gli scherzi, ne abbiamo ancora, qualcuno ne stanno già sorseggiando, diciamo che l'evento è riuscito, ecco, perché a un anno dal terremoto questa birra che ha tra l'altro un'altra birra che prosegue, c'è cioè una nostra Blonde che abbiamo chiamata Aurora, anche questo è un segno diciamo di rinascita, di partenza, di alba, che prosegue, quindi prende il testimone della Magnitudo e la porta avanti diciamo nella vita, speriamo, normale dei prossimi mesi. Buon lavoro, grazie Michele, a te e a tutto il tuo team, ai ragazzi che appunto collaborano, hanno collaborato, vi siete rimboccati le maniche e via, il birrificio appunto si è rialzato grazie alla Magnitudo, adesso grazie a questa nuova Aurora. Ciao, buona serata. Grazie, ciao. Questi gesti di solidarietà, sai Federico, ne abbiamo raccolti tanti, no? Di birrifici che ospitano birrifici, quindi concorrenti che però nell'emergenza si uniscono, ne abbiamo ricevute tante di queste segnalazioni nel corso dei mesi, di aziende che disponendo di spazi liberi hanno ospitato altre aziende, magari anche concorrenti dello stesso settore, parliamo di tessile, parliamo di prodotti biomedicali, quelli famosi di Mirandola, che in questa maniera hanno superato quella fase dell'emergenza. Poi ovviamente ciascuno è dovuto tornare nei propri locali, anche per questioni ovvie di concorrenza, di clienti, di una serie di altre ragioni, ma questo ha davvero salvato tante aziende e tanti lavoratori, perché poi comunque i lavoratori, i dati che dava proprio la settimana scorsa il presidente della regione Errani, ricordava che la cassa integrazione da 40.000 in cassa integrazione subito dopo il terremoto adesso è, diciamo, drasticamente ridotto il numero a 2.600. Questo significa che nonostante la crisi, nonostante la perdita di posti di lavoro, ovviamente sono 4.800 posti di lavoro persi a causa del terremoto, ecco, le aziende sono riuscite a ripartire. Sono riuscita a ripartire con il contributo anche di solidarietà, che, di cui parliamo tra l'altro tra poco, no? Perché abbiamo già un altro ospite. Subito. Intanto Emilia che riparte, radio24.it, se volete scriverci in diretta oppure via sms al 349-238-6666. Prima Laura hai citato il comune di Moglia, quindi siamo in Lombardia. Siamo in Lombardia. Questa... Io ci tengo molto a ricordare che i comuni colpiti non sono solo quelli dell'Emilia, che sono ovviamente la stragrande maggioranza, ma ci sono anche quelli di altre due regioni vicine, appunto, la Lombardia e il Veneto. Moglia è in Lombardia. Federica Gualtieri è con noi, buonasera. Sì, buonasera. Federica buonasera. Gualtieri è un'insegnante a Moglia, ma è anche un assessore, quindi diciamo ci dà una vista sia da professionista dell'educazione, sia da in parte da politico. So che questa sera ti ho chiesto un intervento principalmente da insegnante, perché abbiamo sentito tanti bambini fino adesso. I tuoi bambini a scuola hanno, così come hanno vissuto questo periodo successivo al terremoto, la ripresa delle scuole? Sì, io insegno in realtà a Pegognaga, che è un paese vicino a Moglia e che ha subito dei danni alle strutture scolastiche importanti, proprio come Moglia. E in effetti i bambini hanno reagito bene, nel senso che apparentemente non hanno mostrato nessuna paura. Ovviamente, insomma, ci sono stati dei disagi all'inizio dell'anno, perché non avevamo proprio gli spazi dove fare lezione e abbiamo passato un periodo su doppi turni con lezioni in spazi inconsueti come il bocciodromo, come la canonica. E questo periodo è stato vissuto dai bambini bene, ovviamente, anche perché è stato un modo per fare una didattica diversa, più laboratoriale. Adesso che tutto insomma si è rientrando, un po' normalizzato, esatto, sicuramente dal punto di vista degli insegnanti c'è una rincorsa nella programmazione, certo, perché bisogna recuperare. Esatto, per recuperare. I bambini, appunto, dicevo, sembrano aver superato il trauma, vogliono parlarne molto poco, infatti insomma a ridosso dell'anniversario c'è stata qualche iniziativa in cui appunto abbiamo tentato di far scrivere dei testi, così qualcuno ha scritto, qualcuno un po' meno, ma c'è stata molta ritrosia in questo senso, credo significativa. Però adesso, esatto, perdonami se ti interrompo, dovranno per forza, diciamo, ripensare a quei giorni, perché voi avete un festival, una serie di iniziative che servono proprio a ricordare e superare. Ti chiedo di stringere, esatto, in pochi secondi questa comunicazione. Sì, a Moglia ci sarà il 7, l'8 e il 9 giugno, la manifestazione Piacere Moglia. È una manifestazione che è nata dalla volontà dei cittadini e noi come amministrazione, adesso parlo come assessore di Moglia, abbiamo accolto molto molto volentieri. Sarà un momento per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato solidarietà verso il nostro paese e sono stati veramente in tanti, tantissimi. E poi sarà anche un momento per mostrare che Moglia non è soltanto un paese terremotato, ma è anche un paese che ha delle attività produttive e commerciali, che sa fare tante cose e quindi che torna, è pronta a tornare in pista. Esatto. Grazie a Federica Gualtieri, come dicevamo, grazie, insegnante, assessore a Moglia. Federico, il momento della viabilità? Sì, esatto, volevo dare il sito al volo, piaceremoglia.wordpress.com, perché volesse conoscere l'intero programma. La viabilità poi ancora qua in diretta con l'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte. Ho letto e ho sentito, mi sono svegliata non per la scossa, ma perché il mio armadio ha le ante di vetro, quindi faceva rumore. Però non ho avuto paura, anzi, ho preferito ignorare tutto e... Io non mi sono neanche resa conto che fosse terremoto perché non l'avevo mai sentito e... Però mi è sembrata una sensazione strana e dopo non so perché, ma mi è venuto mal di pancia. Ero a letto, no? Non ho sentito niente, ma si vede che la mia pancia ha sentito qualcosa perché dopo mi sono svegliata e ho vomitato. Sangue e polvere, questa è la canzone del cantautore John Strada, è un cantautore emiliano, ha scritto questo pezzo appunto per parlare del terremoto, ma ha scritto anche un'email. Lui vive vicino a Cento, siamo in provincia di Ferrara, mi ha detto: guarda, una cosa che mi ha colpito in questi giorni è che comunque è sì l'anniversario, ma sono nate tante feste, che poi anche chiamarle feste è parola grossa, però la voglia di condividere. Hanno condiviso la paura un anno fa, un anno dopo sono lì per condividere insieme il ricordo. Questa canzone racconta le strade polverose, le strade di sangue, le strade di polvere che hanno così costeggiato, che hanno delineato le miglia. E adesso andiamo proprio nel ferrarese, che è un'altra delle province colpite. Ci andiamo con Daria Bignardi, che è ferrarese, che anche lei ha vissuto comunque il terremoto a distanza, credo, più al telefono, più ricordi, più la paura per gli amici, per i conoscenti, per i parenti, per quella terra che non doveva tremare, invece ha tremato. Daria Bignardi con noi, ciao Daria. Ciao Federico, ciao a tutti. È difficile ricordare. Tu cosa hai fatto? Nel senso, quando hai saputo del terremoto hai subito chiamato casa? Beh, naturalmente sì. Sono stati momenti drammatici, come ti puoi immaginare. Mia sorella vive a Ferrara con suo marito e tra l'altro lei è stata molto colpita dal terremoto, tanto che è ancora fuori casa dopo un anno. Cioè lei viveva in una vecchia casa del centro storico che quella notte per la seconda volta ha tremato, le sono caduti i libri addosso, le sono caduti i calcinacci addosso, un'esperienza terrorizzante. Poi sai, la seconda volta è terribile perché sì, pensi che non finirà mai più e quindi è stato tutto molto angosciante ed è durato molto a lungo, perché tu ti ricordi che poi le scosse sono continuate per tanti giorni, sembrava non finire, quindi ci sono state settimane e settimane di trauma seguite da una paura che non finiva più. Io poi sono stata a Ferrara insomma, diverse volte. La prima faceva paura perché c'erano ancora le chiese chiuse, i calcinacci per strada e la casa di mia sorella faceva impressione, la fa ancora, l'hanno tutta ancorata, sai, devono per metterle in sicurezza fare una specie di ancoraggi e rifare le fondamenta. E un anno dopo cosa hai colto? Cosa cogli? Sai, io un anno dopo ho l'impressione che a Ferrara le cose siano state fatte bene, e quindi è una bella impressione, l'impressione che nonostante tanti problemi che ci sono ancora, come ti dico, io ne ho uno in famiglia di una sorella che è fuori casa da un anno, però la mia impressione è che la città abbia reagito molto bene, cioè ci sono stati dei primi mesi terrorizzanti, poi un po' alla volta ci si è messi una cosa alla volta a lavorare, a prendere, insomma, a esaminare ogni problema. La mia impressione è che, insomma, non è ovviamente, sai, non te ne sto parlando da giornalista, certo. Quindi non, in realtà non ho dei dati precisi su nulla, però proprio parliamo di emozioni, di sensazioni, la sensazione di una città che ha saputo reagire, l'atmosfera che i primi mesi era abbastanza spettrale, adesso, cioè, da dopo l'estate è completamente cambiata, insomma c'è una città che ha reagito. Insomma, questo è importante come testimonianza. È una testimonianza che io non conoscevo Ferrara prima, l'ho conosciuta in questa occasione, però mi sento assolutamente di condividere, non solo perché l'ho vista quando c'è stata il 20, questa grande riunione dei consigli comunale, provinciale, di tutti quelli della zona, ma anche perché nel corso dei mesi mi è capitato di seguire il manifesto per la ricostruzione sostenibile di Ferrara, che è sostenibile non solo nel senso ambientale, che è quello per il quale io mi ero così un po' avvicinata a questo tema perché mi occupo in radio di questo, ma anche perché è una ricostruzione sostenibile da un punto di vista sociale delle persone, hanno coinvolto il comune dell'Aquila, hanno fatto tesoro di tante esperienze passate per riuscire a superare questo momento e volgerlo in positivo. La mia impressione di questa città è stata ammirata quando sono stata lì ultimamente, veramente non sembra sia passato un terremoto. Guarda, e questo è molto bello di quello che dici, perché tu confermi con cognizioni tecniche la sensazione che ho avuto io, e cioè che ci si sia mossi bene, non in maniera né affrettata né superficiale, né, sai, è facile fare errori quando hai a che fare con una ricostruzione, con un'emergenza, è molto facile fare errori. Invece la mia impressione è che ci sia stata la capacità di affrontare le cose con grande serietà e con grande attenzione. Grazie davvero Daria per questa bella testimonianza. Grazie. Continuo ad ascoltarvi. Grazie. Buonanotte. Davvero. E noi rimaniamo a Ferrara, rimaniamo e usciamo dalla città, andiamo in provincia, lo facciamo con il direttore della nuova Ferrara, Stefano Scansani, che tra l'altro lui ha vissuto il terremoto a Mantova, poi dopo qualche mese è stato nominato direttore della nuova Ferrara, quindi è arrivato a Ferrara a terremoto avvenuto, proprio appunto su questa retta che collega Mantova a Ferrara, ha proprio vissuto i due terremoti. Ciao Stefano, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Osservatore privilegiato, perché comunque dirige il giornale che ha raccontato e racconta quotidianamente quella che è la ricostruzione. Mi ha colpito un tuo articolo che hai fatto il 20 maggio, in automobile hai fatto una sorta di viaggio sui luoghi del terremoto, luoghi che neppure bene conosci perché comunque sei un novello della provincia. Cos'hai fotografato, cosa hai visto, cosa ti sei portato a casa da quella giornata in automobile lungo le vie del terremoto? Ho portato con me stesso un giornalismo di strada che è il più importante, è il più vitale, è il più quotidiano, diciamo. Quindi mi sono fatto quelle strade del terremoto e scopro che il ciclista che si avvicina ad un mio cenno, non riuscivo a far funzionare il navigatore, gli chiedo: ma come si fa ad arrivare a Sant'Agostino, a San Carlo? E questo mi dice: guardi, vada fino in fondo, circa 6 chilometri, non può sbagliare, trova una chiesa distrutta e lì svolti a sinistra. Qui ho capito che il terremoto, la disperazione, la paura, la morte delle varie scosse tra il 20 e il 29 sono state ingerite nel paesaggio, sono state metabolizzate, diremmo sopportate. Questa è la gente che sa mangiare, la gente che sa discutere, la gente che sa lavorare. Ad un certo punto se lo sono presi dentro il terremoto e se lo stanno rielaborando. Certo. È entrato nelle segnalazioni, diciamo, dell'orientamento stradale, nella topografia. Ecco, la chiesa distrutta a sinistra, si arriva nel paese dove il municipio è stato fatto saltare e poi è l'icona del terremoto dell'anno scorso. Il municipio di e poi Sant'Agostino. A San Carlo, che è il paese della liquefazione delle sabbie, dove tutto sostanzialmente è più o meno come prima. ma non tanto da un punto di vista urbanistico, architettonico, gli squarci, i tetti rotti, le tegole, i contrafforti, i tiranti d'acciaio, cioè questo panorama che si è arricchito di tutti questi dettagli estranei, ma più che altro è un paesaggio anche psicologico. Si percepisce nella gente, come nel ciclista che mi ha fatto da orientatore, che qualcosa è cambiato. Infatti, Federico, nel mio pezzo, sì, non è un dato retorico, è anche la verità, c'è un cambio di psicologia che ha fortificato gli emiliani, ha fortificato i ferraresi, ha fortificato i mantovani e anche i rodigini, perché anche loro sono dall'altra parte del Po, ma sì, anche loro sono stati toccati, che è stato quello di aver capito che non siamo più gente che può morire o rischia di morire sott'acqua a causa di un'alluvione. La nostra turbativa epocale era l'acqua, invece era il fango, no? Invece anche la terra amica, la terra che è coltivata, la terra che ha sfamato per decenni appunto quelle popolazioni, può diventare nemica. Stefano, grazie davvero per questa testimonianza e complimenti per il bel lavoro che state facendo per raccontare. Grazie, quotidiano, sempre in diretta, purtroppo anche col terremoto. Grazie e buon ascolto. Ciao. Noi ci fermiamo al momento del GR, poi ancora qua in diretta un'altra ora per raccontare l'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte. All'inizio credevo fosse un tuono, oppure un carro armato, una cosa così. Poi quando sono andato giù, ho sentito parlare i miei vicini e ho capito che era il terremoto. Io ero a letto e stavo facendo, non so se un sogno o un qualcosa. Allora avevo pensato ci fosse un qualcuno lì nel letto che mi volesse per ammazzare, una roba del genere. Allora mi sono svegliata di colpo urlando L'Emilia che riparte un anno dopo. Ancora buonasera da Federico Taddia e Laura Bettini, siamo insieme per ricordare, per raccontare, per guardare avanti tante storie, tanti protagonisti, loro malgrado delle sisma e anche voci amiche, voci che si sono messe in gioco, hanno voluto esserci perché sono simboli, perché sono persone amate, perché sanno che ogni tanto bisogna metterci la faccia, perché fa parte anche proprio della responsabilità del ruolo. E siamo molto orgogliosi di avere ospite una persona che in questi 12 mesi, ma non solo, perché la solidarietà fa parte del suo DNA, si è messo davvero in gioco e tante volte l'ho visto con la chitarra in mano per portare sollievo alla gente del terremoto, alla gente dell'Emilia piegata. Diamo il benvenuto a Gianni Morandi. Ciao Gianni. Ciao, buonasera, ciao. Ti abbiamo visto. Sì. Devo dire che qui a casa mia mi ricordo benissimo quella notte, il 20 maggio, la prima notte, che mia moglie si svegliò però non ci rendevamo conto, sembrava che qualcosa si muovesse, però l'epicentro era molto lontano. Poi guardo subito sul televideo, perché a quel momento lì in televisione dice lieve scossa di terremoto. Sembra che non ci siano né danni né alle persone né alle cose. Poi invece il giorno dopo abbiamo cominciato a scoprire questa verità terribile, insomma. E poi si è ripetuta il 29 maggio, dopo 9 giorni, e quella fu la scossa drammatica. Noi abbiamo avuto modo di... tanti di noi sono andati sui luoghi a vedere, a Crevalcore, a San Felice sul Panaro, a Finale Miglia, a Poggio Renatico, in tanti posti, a Medolla. E effettivamente fa un effetto incredibile vedere. Poi trovarci in mezzo deve essere ancora più drammatico, perché adesso camminare nei centri di questi paesi ancora vedi i palazzi crollati, i campanili che non sono ancora stati rimessi in piedi, ancora. Però già qualche segno che la vita che ricomincia si sta cominciando a vedere. Mm-hmm. Mi stanno inaugurando anche degli spazi nuovi. Infatti tu eri a Crevalcore pochi giorni fa, vero, per l'inaugurazione? Sì, sono andato a Crevalcore e il sindaco era orgogliosissimo dal sisma di poter inaugurare questo auditorium, quindi tutto il paese era lì. Insomma, Ma poi c'è stata la musica, ha fatto qualcosa per il terremoto, anche la cosa di Campovolo, l'organizzazione lì ha portato soldi, anche il concerto che è stato fatto a Bologna allo stadio, certe manifestazioni anche in Piazza Maggiore a Bologna, molti artisti sono andati sui luoghi così, un po' per solidarietà, un po' anche per così, per portare anche dei fondi. No, devo dire, sì, si è mosso il mondo della musica. Si è mosso il mondo della musica anche perché tanta musica viene dall'Emilia e questo è un dato noto. C'era anche un legame affettivo forte come quello che si diceva prima. Ma sì, l'Emilia è sempre stata una terra di musicisti, di orchestre, di orchestrali, di liscio, di rock, di tutto. Era ovvio che si esponesse anche in questo senso, insomma, tutto sommato. Sì, beh, insomma, poi la sentiamo tutta l'Emilia, anche la Romagna si è unita, insomma, anche Emilia-Romagna è un tutt'uno, però l'epicentro è stato proprio a molte decine di chilometri di distanza. Certo. Però ecco, gli anni hanno dimostrato di essere forti, di darsi da fare, certo hanno avuto degli aiuti, però è gente che si tira sulle maniche e lavora, fa. Hanno fatto tante cose, tante aziende hanno riaperto, alcuni così in maniera provvisoria, però andando, ecco, senza stare lì a piangersi addosso, pur con il dramma che stanno vivendo ancora adesso. So che proprio anche un paio di giorni fa forse eri a Poggio Renatico, che è un'altra zona, siamo in provincia di Ferrara, anche quella fortemente colpita. Sì. Ma lì è successa una cosa particolare perché un ragazzo ha scritto proprio su quella sera, che si chiama Bella Emilia, e me l'ha fatta ascoltare e io devo dire mi ha colpito molto e probabilmente, anzi mi piacerebbe proprio registrarla, perché una parte è cantata in dialetto, dialetto emiliano, bolognese, un po' di misto fra modenese, bolognese, ferrarese, però ecco, è una bella idea, ero andato lì per sentire questo coro e magari cantarla insieme. Perché poi lui l'ha postata su Facebook, sulla mia pagina, io l'ho ascoltata e mi è piaciuta molto. Tra l'altro ricordiamo che Gianni Morandi in questo periodo ha scoperto Facebook e ti stai anche divertendo, vero? Ma sì, devo dire che... ci si fanno delle belle scoperte. È bellissimo avere tutti questi messaggi, questi contatti, questi consigli, anche qualche vaffanculo, anche qualche battuta spirituosa, però è divertente, interessante. Gianni, grazie. Bene. Grazie davvero per la tua testimonianza. Adesso ascoltiamo insieme una canzone sull'Emilia che hai cantato tu insieme a Francesco Guccini e a Lucio Dalla, che Emilia, ce la vuoi presentare? Sì. È stata registrata nel 1988. La musica è di Lucio, i versi sono di Guccini e io in quel periodo stavo lavorando con Lucio per fare un tour insieme, un disco insieme, e cantammo questa canzone tutti e tre insieme. Devo dire che è stato un momento bellissimo per me, naturalmente, spero anche per loro, e si parlava della nostra terra e di brutta razza gli emiliani, diceva Guccini nel finale, brutta razza gli emiliani, però in maniera... E mi fa piacere che mettiate questa canzone. Questa canzone noi l'abbiamo scelta ed è stata proprio la colonna sonora che Radio 24 ha scelto per raccontare l'Emilia che riparte. Ciao Gianni, grazie. Bene, buona serata. Buona serata. Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa. La casa di piedi in questa spianata, di sole che strozza la gola alle rane, di nebbia compatta, scabrosa, stirata, che sembra di pane. Ed una strada antica come l'uomo, marcata ai bordi dalle chiacchiere di un duomo. E i fiumi, falsi avventurieri che trasformano i padani in marinai non veri. volti fra i campi e sui prati, lagune e piroghe e le terramare, guerrieri del nord dai capelli gessati, ne hai visti passare. Emilia allungata tra l'olmo e il vigneto, voltata a cercare quel mare mancante, e il monte Appennino raccontando un segreto diventa un gigante. Lungo la strada tra una piazza e un duomo, Morandi, dal simbolo dell'Emilia, le sue parole sono state, beh, stasera a Fiorello, ma in tantissime delle serate dedicate all'Emilia, i testi di Dalla sono tornati. Guccini, che sarà anche lui con noi questa sera. La musica fa parte dell'Emilia, la musica si è messa in gioco. Non a caso abbiamo detto a Crevalcore un auditorium, esatto. Non abbiamo parlato di altro, abbiamo parlato ancora di musica, anche se poi ci saranno altre funzioni in questo auditorium e ne riparliamo. Dove andiamo adesso invece? C'è un'altra Ti porterei a Mirandola perché Mirandola sulla bocca di tutti, insomma, ne abbiamo parlato molto, del centro storico che è appena riaperto, e facciamo una storia un po' al contrario rispetto a quella che abbiamo fatto prima. Prima abbiamo parlato di commercianti che hanno trovato il modo di riaprire le loro attività in un centro commerciale, quindi esterno, in un qualcosa di nuovo. Ora parliamo con una commerciante che ha fatto il percorso inverso, cioè ha lasciato le periferie per rientrare nel centro storico quando non c'era ancora nessuno, quando era difficile arrivarci, quando non c'era la viabilità per arrivare al suo negozio. Paola Foschi, la proprietaria della boutique Donna Più. Buonasera Paola. Buonasera a tutti. Ci fa piacere davvero averla con noi e ci racconti un po' questo suo percorso. Com'è che da fuori lei ha deciso di tornare dentro? Perché? Non c'era ancora nessuno, non c'erano le strade aperte. Sì, è giusto che spieghi più dettagliatamente. Il mio negozio si trova storico, perché sono... Paola, chiedo scusa, la richiamiamo al volo perché c'è la linea un po' disturbata, quindi insomma è inutile fare questa chiacchierata che è bella e intensa, però perché disturbarla... Appunto... Possiamo approfittare. Certo. 6 mesi fa, quando andai la prima volta a Mirandola, tutti i commercianti erano nel piazzale di un grandissimo centro commerciale. Cioè sembrava ci fosse un mercato continuo, perché tutti i tendoni, no? Uno di fianco all'altro, nel piazzale del centro commerciale, dove quindi non si posteggiava più perché c'erano queste tende. Quindi era effettivamente un panorama strano, atipico. Adesso poi Paola ci dirà qual è stato il suo percorso, perché l'ha compiuto. Centro storico blindato ancora, perché le macerie, c'era da rifare tutto. Lo stesso panorama era quello che io avevo visto a Finale Emilia poche decine di minuti prima, quello che si poteva incontrare in qualunque altro luogo. Ero stata anche a Concordia, anche lì i commercianti, lasciato il centro storico, io tentai di avvicinarmi inutilmente perché comunque era tutto blindato, avevano ricostruito il loro piccolo centro commerciale in un parco cittadino. Questa è stata la maniera in cui tutti coloro che lavoravano in questi paesi hanno tentato di ripartire, ma anche le banche, anche gli istituti, gli uffici postali, chiunque, perché nel centro storico non c'era ovviamente più niente di aperto e disponibile. Non so se abbiamo di nuovo Paola, oppure se Paola ancora non era raggiungibile, aveva come un elicottero alle spalle quasi, vero Federico? Ecco, ci stanno dicendo adesso parte, ci siamo. Paola adesso ci sentiamo molto meglio adesso. Mi fa piacere, io in compenso sono uscita, sono in giardino, praticamente quasi sulla strada. Spero non piova no, questa non sera. Piove, c'è freschino, ma non ha importanza, non sono in casa perché si vede che il telefono funziona male. Niente, volevo essere più dettagliata, nel senso che il mio negozio storico è di fianco al Duomo, in pieno centro storico, e sono lì da 37 anni nella via Pico, e i mesi successivi... Pico della Mirandola, adesso lo diciamo, magari non è fatta immediata l'associazione, ma insomma stiamo parlando con Mirandola quella vera. Esatto, Mirandola quella vera, con Pico il famoso umanista del 400. E niente, dicevo, successivamente, cioè poco dopo il terremoto, io mi sono arrangiata a casa mia sotto al portico di casa, allestendo appunto alla bene meglio, cioè allestendo tipo un negozio, ecco. E il primo di settembre sono andata un po' controcorrente, nel senso che il mio negozio è inagibile, come ripeto, spero tra un anno di poterci rientrare. E cosa ho fatto? Ho preso in affitto, distante proprio 20 metri dal mio negozio, ne ho preso in affitto uno e mi sono insediata lì. Ma è vero che i colleghi ti hanno preso per pazza? No, per, cioè diciamo per pazza no. Coraggiosa sì però. Sì, sì, devo dire che le prime due settimane sono state veramente terrificanti perché la via era chiusa, inaccessibile, non c'era nessuno. Avevo qualche collega che aveva già riaperto nella mia via, ma erano tutti negozi che non erano inagibili, cioè praticamente i commercianti erano rientrati coraggiosi veramente nei loro negozi che erano agibili. Io ero a settembre l'unica, proprio l'unica che l'aveva inagibile ed era rimasta nella propria via. La cosa che a me veramente faceva, cioè, mi sembrava di vivere una situazione surreale, era quando mi affacciavo alla porta di questo negozio, mi giravo a destra e vedevo il mio negozio e dicevo ma non è possibile, ma io cosa ci faccio qui? Cioè, e poi insomma dopo le vie si sono riaperte, altri negozianti hanno preso fiducia, sono venuti in centro, però ripeto erano quasi tutti i negozi agibili. E cioè sono ritornati alle loro sedi e dopo insomma la vita ha cominciato a riprendersi lentamente e una cosa veramente che io non posso che ringraziare le donne mirandolesi e tutte le clienti e le nuove clienti che si sono proprio unite in un cordone di solidarietà per noi negozianti, e questo vale secondo me non solo per il negozio del centro storico ma per tutti i negozi, e hanno voluto comprare nella loro città. E questo è un gesto che va riconosciuto a queste persone che insomma hanno avuto un forte senso di appartenenza, di appartenenza e di responsabilità, perché la frase ricorrente era no, noi dobbiamo, siamo di Mirandola e dobbiamo comprare a Mirandola. E questa è una cosa lodevole veramente che va riconosciuta, un gesto anche questo di grande umanità veramente. Paola, complimenti per il coraggio e buon lavoro per il futuro. Grazie mille, vi aspetto quando tornerete a Mirandola. Via Picco. Okay. Arrivederci. grazie. E adesso un'altra testimonianza importante, perché anche lui è emiliano, ma anche lui sa cosa, è testimone di cosa significhi ripartire, piegarsi ma non spezzarsi, trovare il coraggio, trovare la forza e mettere in gioco anche lì la creatività per reinventarsi. C'è con noi Alex Zanardi. Ciao Alex. Ciao, buonasera. Scusate il gioco di parole, ma in verità io mi sono spezzato, ma non piegato. Hai ragione anche tu. E non possiamo neanche... via, insomma, la schiena se l'ho ancora dritta, dai. Alex, tu come hai vissuto il terremoto? Perché tu sei emiliano, ma non vivi a Bologna, credo. Non so, eri in città quando c'è stato il sisma? No, io quella sera ero precisamente a Piacenza. Mm-hmm. E quindi lo sentii peraltro molto molto bene, ero in una stanza di hotel con il mio compagno della nazionale paraciclistica col quale abitualmente divido la camera d'albergo, perché eravamo lì per una gara paraciclistica, per cui ricordo che insomma lì per lì in realtà ci siamo fatti un po' due risate, perché poi lui è mezzo marchigiano, mezzo abruzzese, per cui si era un po' impaurito, insomma è stata anche buffa poi la scena, visto che poi era andato tutto bene, salvo poi scoprire al mattino che in realtà non lontano da dove stavamo noi purtroppo le cose non erano andate nello stesso modo. Mm-hmm. Ecco, e lì salta fuori lo spirito emiliano di cui si è parlato tanto, che è questo carattere dove l'ironia aiuta, dove c'è la capacità anche di sdrammatizzare, c'è la capacità di non piangersi addosso. È leggenda metropolitana o è vero? O questo tu sulla tua pelle l'hai vissuto ed è stata una tua energia, un tuo serbatoio di energia? Ma guarda, quando poi si cercano, come posso dire, delle ragioni per un modo di reagire che in qualche modo ha fatto la differenza in una determinata occasione, uno cerca di un po' ritornare indietro con la memoria, quello che può essere stata la storia, salvo poi magari evocare in qualcuno che ascolta, come posso dire, ragioni per dire beh, anche noi poi abbiamo patito lo stesso. Io non so se questo sia vero, però insomma l'Emilia è un paese, che una zona dell'Italia che certamente è stata colpita molto dalla guerra, e nell'immediato dopoguerra insomma c'era davvero poco, la gente si è tirata sulle maniche, è ripartita, ha saputo fare anche con quel che c'era, ha saputo davvero cercare l'opportunità in qualche cosa che sembrava, in una situazione che sembrava offrirne ben poche. Questi sono stati in qualche modo i nostri genitori, forse ancor più i nostri nonni, mi verrebbe da dire. Comunque una zona d'Italia che davvero dalla terra ha tirato fuori tutto quel che c'era, e poi che successivamente nel periodo dell'industrializzazione ha comunque anche saputo mettere a frutto il genio creativo di uomini, mi viene in mente Enzo Ferrari, quello mm-hmm. che può aver fatto lui, insomma, la passione per i motori, ma anche questo spirito molto forte, di questo valore che è la condivisione, la voglia di fare delle belle cose ma di farle assieme, di condividerle con qualcuno. Ecco, io credo che tutte queste caratteristiche siano poi venute fuori dopo, logicamente, un momento di grande smarrimento in cui comunque ti ritrovi in ginocchio di fronte a ciò che è accaduto, eppure alla fine fai un po' quadrato attorno a ciò che è rimasto, dici vabbè, comunque la vita è una grande opportunità, dobbiamo coglierla anche in onore a chi purtroppo non c'è più, e cercare di ripartire. Sai che Alex, proprio sì. A riguardo di questo stavo pensando che, essendo io emiliano ed avendo vissuto lì la quotidianità, quindi fai anche memoria di quello che hai colto, di quello che hai ascoltato, no? Parlando coi genitori, parlando con gli amici, parlando anche coi giovani, tantissimi ti dicevano, ti dicono, nulla sarà più come prima. Come si può convivere con questo sentimento? Immagino che anche tu, per la tua esperienza personale, tante volte ti sia guardata allo specchio e hai detto nulla sarà più come prima, perché non può essere come prima. Si può superare questo che sembra quasi un blocco? Guarda, premetto che prima di tutto ognuno le difficoltà le vive a modo proprio, e poi comunque le difficoltà sono tali, sennò avrebbero un altro nome, e quindi non è facile buttarsele alle spalle. Tuttavia capita la volta che la vita ti presenti dei conti assolutamente imprevisti con i quali bisogna gioco forza poi saper dialogare, bisogna saperci fare fronte. Ecco, io ripeto, la mia è una storia completamente diversa, sono difficoltà di tutt'altro tipo, eppure se un comune denominatore può essere trovato, io posso solo raccontare che a distanza di anni sembra quasi una forzatura, eppure ciò che mi è accaduto forse è stata l'opportunità più grande della mia vita, perché se tu guardi tutte le cose che io sto facendo oggi, sono tutte direttamente connesse alla mia nuova condizione. E non è che io sono arrivato a vincere 2 medaglie alle Olimpiadi perché avevo l'ambizione di vedere la mia brutta faccia sul giornale. Io sono arrivato a vincere le 2 medaglie perché volevo andare in bicicletta. Poi, come piacevolissimo valore aggiunto, sono riuscito a ottenere anche risultato. Ma alla fine il voler andare in bicicletta è stato semplicemente un fatto relativo a come posso dire, una passione. Il fatto di dire la vita può offrirmi ancora tantissimo, e vado con curiosità a cercare di capire che cos'è tutto quello che mi può offrire. E alla fine io ho scoperto delle cose fantastiche, perché comunque vivere senza gambe non è necessariamente un palliativo, anzi, ripeto, consentimi di dire che forse se apparisse il David Copperfield della situazione e oggi mi dicesse Zanardi, io con un colpo di magia posso cambiare l'esito di quell'incidente di quel giorno, Tagliani ti schiva e tu oggi ti ritrovi con le gambe, però non ti è dato sapere che cosa avresti costruito in tutto questo certo. tempo qualora tu non avessi perso le gambe. Ecco, io credo che a quel punto il rischio non me lo prenderei, perché comunque sono comodissimo nella vita che sto vivendo. Quindi ripeto, io non ho l'arroganza di dire che i drammi che sono stati vissuti dalle persone coinvolte nel terremoto siano necessariamente simili a quello che posso aver vissuto io, o che possano trovare soluzioni in modo altrettanto semplice. Detto tutto questo, invece, però, consentimi di augurarmi che a distanza di tempo queste persone possano guardarsi indietro e rivedere il percorso compiuto con grande orgoglio, col mm-hmm. fatto di dire caspita, ce l'ho fatta. È stata dura, ragazzi, ma proprio perché ce l'ho fatta sono orgoglioso ancora di più di quanto io sono riuscito a fare, proprio perché alla fine non solo ho saputo far fronte alle difficoltà che il destino mi ha messo davanti in modo imprevisto, ma addirittura da lì sono ripartito e ho costruito dell'altro che oggi fondamentalmente consente alla mia vita di essere bellissima. E quindi ecco, io davvero mi auguro tutto questo per le persone che hanno vissuto dei drammi fortissimi, eppure testardamente, caparbiamente, con grande... Con grande orgoglio. Beh, bella, la parola orgoglio mi sembra che sia usata con giusta ragione. Anche perché sai, io poi vivo una vita bellissima, sono davvero un privilegiato, la gente mi guarda, mi tocca o mi approccia con grande simpatia perché mi vede ormai come uno di casa, uno che con la televisione è entrato nelle case degli italiani, oppure comunque mi vede come una specie di santone, magari si commuove, dice come hai fatto, dove trovi la forza. Ecco, io credo che entrambe le cose siano un po' esagerate. Tuttavia gli esempi sono tutti attorno a noi, alle volte basta davvero avere soltanto un po' di flessibilità ai muscoli del collo e girare la testa, perché ci sono delle persone che possono essere delle fonti di ispirazione meravigliose se soltanto abbiamo occhi per guardare. Ecco, non serve aspettare di accendere la TV o vedere il telegiornale in mezzo a sera per vedere l'ultima trovata di Zanardi, cosa sei inventato, o l'ultima caduta come abbiamo visto poche settimane fa in rete. Grazie Alex, grazie davvero per grazie la tua testimonianza, ciao. Per tutto. Grazie. ciao adesso ci fermiamo un poi attimo. Ti racconto del bicchiere mezzo pieno del presidente della provincia di Modena a proposito di capacità emiliana. Assolutamente, fra pochissimo. L'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte, Laura, mi stavi parlando di un bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Temporale. Oh, i bambini, mi sono dimenticato, scusami. La casa. Poi sentivo qualcosa cadere, allora ho capito che era il terremoto. Io all'inizio, cioè, sentivo le tapparelle che si muovevano, pensavo fosse il vento forte. Io pensavo una specie di scoppio, tipo una bomba o un temporale fortissimo. Pensavo che erano le scorregge di mio fratello, un po' i rumori. Non potevo coprire le scorregge del fratello. No, hai ragione, non dovevi tentare di coprire le scorregge del fratello. Passiamo al bicchiere mezzo pieno, sì. Va? Tanto lasciamo il tempo di ridere agli ascoltatori. No, sentendo Zanardi mi è venuto in mente il presidente della provincia di Modena che diceva, ammirando l'inaugurazione, cioè la firma di 2 milioni che arriveranno per la ricostruzione di una scuola. Insomma, questo, noi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, questo bicchiere è mezzo pieno. Noi siamo l'unica regione in Italia che in tempi di crisi riceverà 10 miliardi di euro. Ora certo, li ricevono in un momento difficile, però lui dice noi avremo la possibilità di fare innovazione, di ricostruire delle scuole, di fare tutto quello che una regione normale in questo momento non si può permettere. Questo direi è proprio il chiaro esempio della capacità di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché come si può dire siamo l'unica regione che riceverà 10 miliardi, li ricevete perché avete una situazione grave, però è chiaro che se uno la vede nella prospettiva così positiva, questo è una chance per il futuro. Domani il premier Letta sarà in visita alle zone del terremoto. Oggi invece abbiamo intervistato la ministra Josefa Hidem, lei insomma, è di questa regione e lei è stata in questi giorni tra Crevalcore e altri comuni proprio per inaugurare centri sportivi e sale polivalenti. Le abbiamo fatto una breve intervista e proprio a lei ho chiesto cos'è che l'ha colpita della reazione dei suoi corregionali. Ah, devo dire, quel giorno ho proprio toccato con mano quanto è già stato fatto. È stato fatto molto da parte delle istituzioni, è stato fatto moltissimo dalle amministrazioni locali, ma il lavoro più grosso è stato fatto da ogni singolo cittadino. Si sono messi insieme con solidarietà e con spirito proprio di collaborazione a ricostruire tutto ciò che era da rimettere in piedi, non tutto ovviamente, ma hanno preso di mira tutti i progetti da affrontare, quindi mi ha molto colpito e ho detto ovviamente nessuno voleva che accadesse questo terremoto, nessuno voleva che ci fosse questo terremoto, ma nel giorno in cui avranno ricostruito tutto, tutti quanti usciranno da questa terribile esperienza comunque arricchiti. Certo. Il 24 maggio c'è stata la cerimonia d'apertura di questa manifestazione che continuerà fino al 2 giugno, il meeting della rinascita promosso da No Olympics Games, che è un po' così, oltre 3.000 atleti che si mettono in gioco su discipline sportive ma non olimpiche. E i comuni sono quelli toccati dal sisma, Crevalcore, Cento, Pieve di Cento, Finale Emilia, Sant'Agostino, e non solo, le palestre, dopo le scuole, dopo le chiese, dopo i comuni, sono stati tra i primi edifici che la popolazione ha voluto che fossero ricostruiti. Qual è il valore sociale dello sport in questo momento in Emilia, secondo lei? Ma guardi, hanno fatto benissimo partire da quelle situazioni che uniscono e riuniscono le persone e che in questo modo aumentano anche la coesione sociale. E lo sport in questo ha una funzione chiave, in quanto mette insieme le persone, le organizza attorno ad un obiettivo comune, e in questo modo aumenta lo spirito della collaborazione e lo spirito della solidarietà. E in questo senso hanno fatto benissimo a partire dai luoghi di ritrovo. Sono stata a Crevalcore sabato pomeriggio, sabato in prima serata, dove hanno ricordato con le foto i vari passaggi dal terremoto fino alla fase di ricostruzione, di riorganizzazione, in questa palestra che hanno, in questo spazio grande che sarà dedicato allo sport, ma anche alla cultura, al cinema, eccetera, ma consapevoli dell'importanza di ricostruire e riconsegnare alla comunità quei luoghi in cui ci si può trovare insieme e organizzare cose insieme. Quindi hanno fatto benissimo, è stato un momento estremamente toccante sabato sera. Ministra, vorrei fare una domanda, forse alla sportiva prima che alla rappresentante delle istituzioni. Se il terremoto può essere considerato una sconfitta, ecco, come ci si riprende? Cosa si può imparare da una sconfitta? Dalla sconfitta si impara che qualcosa di ciò che si è fatto non è servito per raggiungere il risultato, e quando ci viene ficcato col naso nel non risultato si è anche più aperti ad ammettere i propri errori. Però direi che non è stata esattamente una sconfitta quella di Crevalcore, in quanto è stata una disgrazia che ha colpito le persone, e credo che ciò che tutti hanno imparato da quel momento è stato che la collaborazione, la solidarietà, la coesione sociale sono elementi fondamentali per far andare bene una comunità. E questo si è proprio toccato con mano, l'ho toccato con mano quando sono stata lì. C'è stata la testimonianza di una dirigente che è stata partecipa alla ricostruzione, che diceva: normalmente alla fine di un anno scolastico ci sono tantissime osservazioni critiche per come è andato l'anno, e invece questa volta, a un anno di distanza dal terremoto, nonostante l'attività si fosse svolta in un quadro per forza compromesso, perché le strutture mancavano, ci sono state solo osservazioni positive, e questo fa comunque capire che alla fine tutti comunque sono stati grati per gli sforzi comuni che ci sono stati e per il miglioramento di giorno in giorno che si è verificato sul campo. Immagino avrà incrociato gli occhi di molti giovani. Cosa ha visto in questi occhi? Speranza, rassegnazione, coraggio, forza, paura? Ma ho visto dei giovani contenti di aver avuto riconsegnato, di vedersi riconsegnate alcune strutture che servono allo sport, perché per i giovani questo è importantissimo, poter svolgere attività sportiva in un luogo sicuro. E poi è proprio il senso di comunità, nasce anche lì, nasce nello spogliatoio di fatto, vero? E nasce lì, e credo che per questi giovani sia estremamente importante aver fatto l'esperienza di sentirsi accolti, abbracciati da una comunità che affronta il problema. Certo, e questo insomma è un ottimo esempio che sicuramente la comunità ha dato anche ai più giovani. Grazie davvero alla ministra Josefa Hidem, ministra per le pari opportunità dello sport e delle politiche giovanili. Ministra, le manca la canoa? No, perfetto. Posso dirlo, mi manca, mi manca un po' il movimento, cerco di farlo comunque tutti i giorni, ma la routine della canoa non mi manca, ero arrivata al puntino giusto. Grazie davvero, buona serata. Buona serata. La ministra Josefa Hidem, oggi intervistata per questo speciale sull'Emilia che riparte, un anno dopo, un anno anche di consuntivo, un anno dove una delle tante domande è stata: dove sono i soldi? Che fine hanno fatto i soldi? Quando arriveranno raccolti? I soldi? Quando arriveranno? 10 miliardi, diceva prima, vi ricordavo prima, sono promessi, come la terra promessa. Ho detto che ve la do, ma non vi dico quando, diceva Benigni. Ecco, questa è la situazione. Si sa che arriveranno, che sono quella quantità, però ecco, sul territorio, stando a quello che leggevo sulla Gazzetta di Modena, non è arrivato granché, 35 milioni per le abitazioni private, una decina per le imprese, 750 milioni per la moratoria fiscale, tutto il resto manca all'appello. Almeno le donazioni di quelle che vengono fatte, diciamo, da noi cittadini, ecco, c'è una possibilità di ricostruire, di sapere esattamente dove vanno i soldi. Stefania Zanni, buonasera. Sindaco di Campogalliano, componente dell'ufficio presidenza ANCI Emilia Romagna, chi vuole sapere dove sono andati i soldi, che fine hanno fatto, che percorso eccetera eccetera, va su un sito internet, adesso lo può fare. Esatto. Giustamente il governatore dell'Emilia Romagna Rani si è vantato di questo, diciamo è la prima volta che si sa dove, che percorso fanno i soldi che i cittadini donano per la ricostruzione. Ci spieghi un po' come funziona? Esatto. Noi abbiamo voluto, accanto alla ricostruzione delle nostre case, dei nostri monumenti, delle nostre piazze, voluto ricostruire anche una fiducia, un rapporto di fiducia tra noi, tra le istituzioni e i nostri cittadini. Spesso c'è proprio il dubbio, quando si donano dei soldi, di dove vanno a finire. Tanto parto ringraziando proprio quei tantissimi cittadini, associazioni, ditte che, malgrado un periodo di crisi che stiamo vivendo, ci hanno dato una dimostrazione di solidarietà incredibile, donando a volte anche pochi euro, a volte invece tantissimi soldi. Partendo proprio dall'esigenza di costruire un rapporto di fiducia e soprattutto partendo dall'obiettivo che ci avevamo dati con la nostra ricostruzione, che era trasparenza e legalità, abbiamo fatto questo sito che è Open Ricostruzione, è realizzato grazie dall'Associazione Digitalia e in collaborazione con ANCI, ANCITEL, Action Aid, Openopolis, scusate, e il sostegno soprattutto di Cisco, un sito dove è possibile appunto tenere monitorato dove vanno a finire i soldi che uno dà. È un sito in costruzione, è stato messo in linea il 21 di gennaio, però lo stiamo implementando perché insomma in questo momento se uno va a vedere il proprio contributo dove è finito, vede il proprio contributo, non è ancora stato collegato esattamente all'opera che andrà a sostenere, però lo stiamo mettendo. Almeno riesce ad avere un'idea, ecco, esatto, insomma. Esatto. Poi dopo c'è un'idea certamente della stima complessiva dei danni di quello che è arrivato fino ad oggi. E quindi in futuro saprà anche a quale monumento, diciamo, quale opera è stato destinato. Esatto, e lo stiamo facendo e costruendo, è un percorso molto, voi capite, anche abbastanza complicato, viene tenuto anche aggiornato grazie a un database costituito da ANCI, che ANCI tiene in aggiornamento attraverso il rapporto continuo con i comuni, che è Dolmen, che è donazione, localizzazione e monitoraggio, perché alla fine di tutto il percorso noi avremo un sito dove sarà possibile vedere la donazione, chi ha dato la donazione, dove è stata utilizzata e anche il monitoraggio dell'avanzamento dello stato dell'opera. Molto bene. È stato finanziato. Complimenti per questo lavoro. Sì. Ci salutiamo, magari ci ritroviamo alla prossima occasione, così quando avrete il sito completo riusciremo. Ci tengo a dire una cosa fondamentale per noi. Tutti questi sforzi che ci vengono dati, l'opportunità che ci viene data proprio dai cittadini, dai tanti contributi, vengono verificati se il governo non ci mette a disposizione due cose fondamentali. Primo, gli operatori, i nostri dipendenti pubblici per lavorare. Noi non abbiamo potuto andare in deroga all'assunzione del personale, sono in minima parte, problema e non possiamo grave. Ricostruire senza il personale, fondamentale, hanno fatto dei nostri dipendenti, hanno fatto delle cose straordinarie, e l'altra cosa fondamentale, togliere dal conteggio del patto di stabilità le donazioni liberali. Oggi purtroppo siamo ancora in questa situazione, poi, per cui se non vengono fatte queste due cose fondamentali rischiamo che venga vanificato tutto il lavoro. Tutto il lavoro. Esatto. Grazie davvero, ricordiamo il sito openricostruzione.it. Grazie. E le richieste. Certo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con l'Emilia che riparte. L'Emilia che riparte. L'abbiamo sentita, la seconda che era alle 4.04 l'abbiamo sentita, e mia mamma e io pensavamo che fosse un camion, un trattore, quelli trasporti pesanti. L'avevo sognato la notte prima che c'era il terremoto, quindi mi è venuto spontaneo pensare al terremoto. Stavo sognando che... come fosse un vulcano, come un terremoto proprio. Non ho capito bene cos'era. Pensavo di sognare. C'è un ladro nel divano, il titolo di questo documentario realizzato dall'associazione Future Film Festival. Se cliccate su Google trovate anche le facce di questi bambini che raccontano il terremoto, ed è davvero commovente e divertente. E fra pochissimo Francesco Guccini qua con noi per chiudere questo speciale, ma prima la rete internet, che tanto ha fatto, tanto è stata coinvolta in questo terremoto nei primi minuti già per i soccorsi, ma poi anche per la ripartenza. Abbiamo parlato tanto di nuove opportunità, della creatività che diventa chiave per cambiare le cose. Beh, anche questo è un progetto appena partito, che abbiamo veramente un paio di minuti, ma ci piace presentarlo. Unishop di Palatipico, una rete di consorzi DOP e IGP. Con noi c'è Andrea Prandi, modenese, vicepresidente di Smart Italy, associazione che lavora con i giovani talenti italiani al rinnovamento digitale. Buonasera Prandi. Buonasera a tutti. Cosa vi siete inventati? Ma guarda, alla fine la rete serve anche non soltanto a cogliere le informazioni, ma anche a trovare delle idee. Su Twitter, in quel caso, era subito dopo il terremoto, si era scatenata tutta una campagna per inventarsi Unishop per aiutare i produttori modenesi. Siccome l'avevo notato anch'io questa cosa, ho detto: abbiamo un'associazione, proviamo a metterla al servizio. Ho anche la fortuna di avere molti buoni rapporti a Modena, abbiamo cercato di costruire una rete. La rete, la fortuna è stata di trovarla anche già fatta, grazie a Palatipico, che raccoglie tutti i consorzi per la tutela e la promozione. Sono 20 prodotti tipici: l'aceto balsamico, il lambrusco, il parmigiano, il prosciutto, il cottechino e lo zampone. Vi voglia di mangiare a quest'ora. Sì. E tutte queste cose qui le troverete su, già nei prossimi giorni li potrete comprare su piaceremodena.it. Il prezzo che trovate è direttamente il prezzo dei consorzi per la tutela di questi prodotti, con un po', con soltanto in più il costo del trasporto. Perfetto. E ci è voluto un anno per lavorare tutto ciò, però mettere insieme tutti i consorzi, metterli tutti d'accordo, ci è voluta la costanza soprattutto di Scioletta, che è il presidente che raccoglie tutti questi consorzi. Okay. Che è un signore anziano e che ha fatto un'alleanza con i giovani, diciamo. Piaceremodena.it, grazie davvero, complimenti. Seguiremo anche questo progetto. Adesso pochi minuti, ma questi pochi minuti li passiamo insieme in compagnia di Francesco Guccini. Lo abbiamo intervistato nel pomeriggio ed è qua con noi. Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. Tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il contorno di torri di fumo. Ed ecco qua con noi uno dei simboli dell'Emilia, Francesco Guccini. Ma il simbolo dell'Emilia non so da quanto, comunque va bene. Francesco, tu conosci molto bene il carattere degli emiliani. Come hanno reagito a questo terremoto? Beh, mi è sembrata una reazione encomiastica. E dopo la botta, una gravissima botta, perché deve essere stata un'esperienza durissima, quella di vedersi crollare attorno tutte le case, i capannoni, le chiese, insomma, eccetera. Si sono rialzati e hanno subito fatto fronte al danno, hanno cercato di risollevarsi e lo stanno facendo ancora. E sono stati bravissimi, veramente, senza lamentarsi più di tanto, ma cercando di trovare la strada giusta per tornare in piedi. Mm-hmm. Tu vivi in provincia, vivi anche la quotidianità, in una zona che non è stata colpita fortunatamente dove vivi tu dal terremoto, però hai visto le zone terremotate. Secondo te è la provincia comunque la vera forza dell'Emilia oggi? Ma da un certo punto di vista sì, ma tutte e due, perché l'Emilia non ha, escluso Bologna, perché non è una grandissima città, sono città ma relativamente piccole, non grandissime, insomma. Comunque la provincia, penso tutto, la provincia emiliana è operosa, è attiva, è vivace, ecco, questo è molto importante. E questo forse fa parte proprio del carattere dell'emiliano, insomma. Uh-huh. E secondo te è stato raccontato bene questo terremoto? Quello che hai letto sui giornali o quello che hai visto nei telegiornali assomigliava a quello che poi tu vedevi quando incontravi le persone? Ma oddio, direi in buona parte sì, tutto sommato, anche se spesso i media tendono a caricare un po' la mano, a cercare le cose più eclatanti, magari pietose, magari questo si può anche dire, però grosso modo direi di sì, sono stati abbastanza efficaci per raccontare quella tragedia. Francesco, in questa giornata, un anno dalla seconda scossa, si parla molto anche di memoria, anche se 12 mesi non sono tanti forse per parlare di memoria, ma secondo te che valore ha oggi ricordare un terremoto, ricordare quella che è stata comunque una tragedia? È meglio guardare avanti, non serve guardare indietro, o invece fa parte comunque delle radici, bisogna ripartire da lì? Tutte e due. La memoria è importantissima, il ricordare è importantissimo, però non si può affogare nella memoria soltanto, bisogna sempre guardare avanti. Però l'una e l'altra cosa sono molto importanti. Proprio oggi hai presentato questo progetto che ti riguarda, Francesco Guccini, cantato dalla sua band. Beh, mi riguarda di sfrisio, come si diceva Modena, di profilo, di fianco. È ovvio che io ho deciso di smettere di fare canzoni, di cantare, di fare dischi. Questi ragazzi, insomma, sono ragazzi di una volta, li chiamo ragazzi, e saranno rimasti così senza poter continuare a fare quello che vogliono ancora fare. E quindi hanno deciso di fare una band di cover, e chi meglio di loro può fare questa cosa, insomma. Uh-huh. E quindi li ho presentati, li ho già annunciati, niente di più, ecco. Uh-huh. L'ultima tool è il nuovo disco di Francesco Guccini, presentato live dalla sua band. Ma Francesco, davvero hai smesso di cantare in pubblico? Confermato? Sì. Perché io ero al tuo ultimo concerto, ma non ci credeva nessuno nel pubblico, sai? No. Ho deciso, basta, insomma, anche perché sono avanti con l'età, mi stanco, se mi stancavo sempre di più. E quindi è meglio poi abbandonare in un momento ottimo, più che aspettare una decadenza continua, insomma. È meglio dire addio quando si è ancora sulla cresta dell'onda, si è in alto nel favore del pubblico, e quindi sì, basta, insomma. Continueranno questi ragazzi. Ma ogni tanto nella tua casa di Pavana ti ascolti? Ascolti i tuoi CD? Ascolti i tuoi dischi? No, io mai, figurati se ascolti i miei dischi, insomma. Quando, appena fatto, sì, per curiosità, per vedere come è riuscita la cosa. E quindi i primi giorni che ho il CD nuovo lo ascolto per vedere il risultato, ma dopo no. Anzi, se capito magari in qualche ristorante, in luogo, per farmi un omaggio, metto sul mio disco e dico: per favore, tiratelo via, fatemi mangiare in pace. Grazie davvero a Francesco Guccini. Buona estate, Francesco, e buon riposo, anche se so che insomma riposo è parola grossa, vero? Sì, è vero. Grazie. A voi, ciao. E con la bella voce di Francesco Guccini chiudiamo questa puntata. Un grazie a tutta la squadra che ha lavorato, a Miriam Lucchetti, a Giorgio De Luca, Riccardo Buccero e Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Io ringrazio te, Federico, e ricordo a chi c'è in ascolto, da domani questa puntata sarà sul nostro sito internet, assieme con i reportage e i viaggi che abbiamo curato in questo anno, reportage anche a cura, lo ricordo, di Raffaella Calandra. Grazie a Laura Bettini e l'Emilia che riparte. Un anno dopo ci è piaciuto esserci. In bocca al lupo, ciao! Sette volte in sette mari, ho visto mostri ed animali rari, l'anfesi bene alle sirene, l'unicorno. Emilia sognante, fra l'oggi e il domani. Il progetto è sostenuto da CPL Concordia, energia che migliora la vita. È da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Gruppo Biper. La nostra forza è la tua forza.